Bala Murgao. Finalmente avevo smesso di ripercorrere cammini già battuti 2 anni prima. Valeva la pena di spingermi fin qua giù, non fosse stato altro che per sentire di nuovo salire in me l'attesa impaziente e la costante eccitazione stimolata dall'ignoto. Giorno dopo giorno mi sarei risvegliata con la curiosità di scoprire quanto ogni istante mi avrebbe offerto. Il nostro albergatore ci aveva indicato quale via seguire all'uscita di Herat. Dritto verso est, dopo aver superato i nuovi edifici governativi. Era impossibile non trovare la strada di Karok, aveva detto. Eravamo sole, avendo convinto il Mudir, il dirigente degli affari esteri, di non poter accettare la scorta offertaci, dato che non avevamo posto in macchina. Il possesso di una carta del Survey of India in scala di 1 inch a 30 miglia ci infondeva una certa fiducia. Dicemmo addio a Herat il mattino del 2 agosto e la sera, avvilite e confuse, eravamo di ritorno nel piccolo albergo dalla canniciata cigolante. Dopo 2 ore di viaggio attraverso uno sterile paese chiuso da colline a settentrione, avevamo iniziato a chiederci perché mai la strada non salisse verso il colle di Zausak, probabilmente segnato Zarmast nella nostra carta alquanto imprecisa. Sebbene avessimo costeggiato un villaggio addormentato dalle cieche case di Pisé, dove ombre dense e nette di torri squadrate davano risalto alla limpidezza della luce, non avevamo incontrato anima viva a chi rivolgerci per chiedere informazioni. Ci erano apparse a sud alcune colline, poi, con nostra grande sorpresa, un fiume largo e maestoso che scorreva ai loro piedi, dividendo la terra come un grande canyon. Il volume e il blu intenso delle sue acque ci indicavano che doveva essere senza dubbio il Harirud, fiume a noi ben noto. Ci trovavamo sulla più nuova delle strade afghane, la linea diretta per Kabul attraverso il Hazarajat. In alcuni tratti molto ripida, fino a quel momento essa non era stata utilizzata se non da ufficiali preceduti da un camion carico di benzina. Quando ero a Kabul nel 1937 ero sul punto di percorrerla, ma all'ultimo minuto l'americano che dovevo accompagnare aveva preferito partire per Bamiyan con una compatriota appena incontrata. Eravamo ora all'altra estremità di quella pista e, benché fortemente tentate dal desiderio di seguirla, ritenemmo più saggio tornare indietro per cercare la nostra grande strada del Turkestan. Qualche giorno dopo, Nicole e Raymond avrebbero seguito quel cammino del Hazarajat, spingendo coraggiosamente le loro biciclette sulle scoscese salite, affrontarono l'impresa, ma quando ebbero fame non trovarono né farina né latte da comprare, tanto i borghi erano rari e la gente povera. In tempi remoti, anche Babur, poco prima di diventare imperatore dell'India, aveva percorso questa lunga pista. Si perse e rischiò di morire poiché le tracce scomparivano, cancellate dalla neve fresca. Con ammirevole ostinazione aveva tuttavia continuato a marciare con i suoi uomini, rifugiandosi in caverne per la notte. Al momento di ripartire da Herat, temendo di smarrirci nuovamente, richiedemmo una guida. Con quell'uomo non potevamo scambiare una sola parola e il linguaggio dei segni era per lui lettera morta. Costeggiando ancora le torri squadrate, che identificammo allora come colombaie, ci condusse attraverso un gruppo di case per poi dirigerci verso il letto del Pashtami in secca. Per 2 volte rimanemmo bloccate da un banco di sabbia con gran disappunto della nostra guida, per nulla desiderosa di maneggiare la pala se non alla moda afghana. Un uomo pianta la pala e un secondo la tira per mezzo di una cordicella legata alla base del manico, procedimento non utilizzabile per liberare una macchina. Più lontano, di nuovo sulla strada, incontrammo lungo una lieve discesa donne velate a dorso d'asino. Le loro scarpe a punta rialzata dondolavano, lasciando intravedere il nero delle calze. La notte è destinata al sonno, il giorno al riposo e l'asino al lavoro, dice un proverbio afghano. All'improvviso si parò dinanzi a noi una macchia scura di vegetazione stranamente fitta e compatta nel vuoto del paesaggio. Era un bosco di pini, chiuso da mura. All'interno vi era la tomba di un santo. Eravamo a Karok. Viali ombreggiati conducevano al sepolcro, costruito nel secolo scorso. La pietra, a forma di bara, era sormontata dalla tradizionale pertica. Nastri e corna di ariete erano sparsi ovunque. Sotto quei pini godemmo la gioia del riposo. In nessun altro luogo, come in Asia, si apprezza il valore di un albero. La mia attenzione fu attratta dalle grandi colonne di legno di una veranda. Passando la mano sui fusti nodosi, ebbi l'impressione di averne già visti di simili. E in effetti essi mi ricordavano gli imponenti pilastri lignei ammirati un tempo nel palazzo dei Khan di Kiva. La loro forma mi sembrava essere tra le più antiche del mondo. Nel frattempo arrivò il sindaco, che ci prelevò per condurci nella sua piccola dimora. Era grosso, con un viso rotondo, portava quei pantaloni europei chiamati Knickerbocker. Sedute su un tappeto scarlatto, bevemmo il tè. La stanza era nuda, con vetri di carta, come in Cina. La pipa d'acqua fece il giro degli astanti, ma qualche ospite rimase fedele al suo tabacco da presa. In realtà, una polvere da mettere sotto la lingua. Cristina si lasciò sedurre dagli occhi sornioni di un bel bambino, dalle lunghe ciglia di velluto nero. Ben presto la conversazione si ridusse a uno scambio di sorrisi e alla fine visitammo il giardino del sindaco. I vigneti afghani sono del tutto particolari. File parallele di piani inclinati sono orientate verso settentrione affinché la vite possa crescere sul versante al riparo del sole troppo ardente. A Karok non incontrammo una sola donna. Secondo la nostra carta, il lungo dorsale montagnoso che si innalzava a nord era il Paropamisus. Le sue propaggini si distendevano in tante coste parallele e noi andavamo dall'una all'altra, salendo e scendendo senza tregua come sulle montagne russe. Non riuscivamo a scorgere il colle dal quale saremmo uscite da questa valle che andava restringendosi sempre più. Nei pressi di uno spiazzo erboso vi era un accampamento di basse tende nere. Due donne, con movimenti ampi e quasi impercettibili del braccio teso, facevano roteare sopra di loro un lungo filo terminante in un piccolo gomitolo di lana. Era così che filavano. In un lieve sibilo si formavano rapidi cerchi come magiche aureole sulle due immobili sacerdotesse. Viste da vicino non apparivano belle, ma vi era della fierezza nel loro portamento. Appartenevano ai Maldar Kutchi, tribù che passa l'inverno nei dintorni di Shabash, il villaggio degli antichi mulini a vento. Mentre costeggiavamo le sponde di un limpido ruscello, mi sembrò di risentire la voce del capo di polizia di Herat. «L'acqua a sud di Sauzak è buona!» Egli non intendeva non inquinata, ma voleva dire che era particolarmente indicata per fare il tè e il pane. Anche in Cina, dove il tè è la bevanda più amata, i luoghi sono apprezzati in base alle loro acque come alcune zone di Francia per il vino che producono. A Chashambe ci riposammo sotto un gelso sul greto di un torrente. Tre haji barbuti stavano seduti accanto a noi, severi e indifferenti, finché, colta da sonnolenza, non rischiai di scivolare nell'acqua. Allora si offrirono di accompagnarci alla locanda e ordinarono per noi tè, pane non lievitato, saporito e profumato come mai ne avevo assaggiato, e pesche dalla polpa tenera e dolce come miele chiarificato. Alcuni gattini giocavano sul tappeto e, cambiamento insperato, i muri erano di pietra e non in pisé. L'aria era gradevole e io mi sentivo intensamente viva, curiosa, con in testa mille buoni proponimenti, tra cui quello di studiare l'iraniano. Salendo verso il colle, incontrammo alcuni asini che trasportavano ceppi dalle tinte gialle e rossastre. Si trattava di legno di cedro, di pino o di ginepro. Era possibile che in qualche zona del paese si gelasse un bosco? Diceva dunque il vero l'ingegnere polacco quando asseriva che da queste parti vi era una località adatta a costruirvi un sanatorio. La strada diventava meno incassata e più piana mentre la vista si allargava. Ai nostri piedi si distendeva una vasta regione chiusa a settentrione da un tavoliere montagnoso, circondato alla base da falesie rosa e a ovest da una successione di audaci picchi porpora e arancio, sorprendenti e magnifici. Sul pendio vicino a noi la macchia scura di qualche vecchio albero contorto, sagoma caratteristica di quei luoghi, sottolineava il gioco dei colori. Ai piedi di tali piante, chiamate harcia, conifere e simili al ginepro, il terreno era ricoperto da cespugli nani, sorta di scure matasse costellate di piccoli fiori rosa illuminati dal sole. La discesa fu impressionante. La pista passava a mezza altezza di un immenso declivio di sabbia. Cristina era al posto di guida. Fortunatamente, dal lato della montagna, mentre dal mio vedevo con spavento girare parte delle ruote nel vuoto, spesso sui bordi franati erano disposte, come consolidamento, sparute file di sacchi. A ogni curva dello stretto percorso, i scisti luccicanti mi ricordavano la pista ghiacciata percorsa dai campioni di sci 6 mesi prima a Zakopane. Tacevo e son certa che Cristina non sospettasse quanti smottamenti il nostro passaggio creava lungo il versante esterno della strada. Con sollievo, alfine, affrontammo un lungo tratto a schiena d'asino, giallo di grano maturo, dove 3 nobili cammelli stavano iniziando la salita. La terra intorno era tutta dorata dagli ultimi raggi del sole, ma il mal d'auto della nostra guida afghana, non avvezza a simili tornanti, non lasciava molto spazio all'irismo. Il paesaggio era ritornato angusto quando raggiungemmo il misero e grigio villaggio di Kala Inau. Vedendoci arrivare, gli abitanti si alzavano precipitosamente in piedi, un segno di rispetto comune in Asia. Alcuni, scambiandoci per personaggi ufficiali, facevano il saluto militare. Non erano più abituati da mesi a veder passare veicoli privati. Un grande muro proteggeva 3 case di terra essiccata. In una risiedeva il governatore della provincia, l'altra era occupata da un fondaco con bidoni che fungevano da casse. La terza era una mehmankana, ossia una foresteria. Davanti a quest'ultima vi erano aiuole di fiori affossate nel terreno per poter essere irrigate dall'acqua dei canali, e là, tra scaglie di argilla, tentava di crescere uno dei fiori prediletti del paese, la petunia violetta. Un uomo dal fisico prestante ci servì poco dopo un piatto di spinaci e riso con gallette di pane, osservandoci apertamente coi suoi occhi ridenti e virili. Il governatore ci sorrise con la medesima spontaneità del suo servitore. Portava pantaloni alla zuava e sulla testa un'alta culah di astrakhan nero. Era di statura piccola e aveva viso rotondo, occhi a mandorla, naso aquilino e incarnato appena più scuro del mio. Egli apparteneva al clan dei Mohammadzai, lo stesso di cui fa parte il re dell'Afghanistan. Chi ha esperienza di questo paese sa che il fatto ha la sua importanza, benché gli uomini del governo di Kabul vogliano dare ad intendere che l'organizzazione tribale sia superata. E a riprova, quando viene loro chiesto a quale ramo della tribù appartengano, essi rispondono di essere semplicemente afghani. Il governatore di Kala Inau non aveva figli e la moglie non era con lui perché malata, mancanza che lo rattristava, come ci confessò. Era stato inviato in quella povera provincia da non molto tempo. Una volta il clima e le condizioni di vita erano migliori. Allora i versanti nord delle colline erano coperti da verdi foreste, mentre al momento rimanevano come uniche vestigia di quella passata vegetazione alcuni rari pistacchi, piante che crescono fino alla frontiera iraniana. Più a nord, ci disse, attraverserete il paese dove conciano le pelli di agnello Karakul. È la specie di agnello da cui si ricava l'astrakhan, attività che costituisce un notevole profitto per l'Afghanistan. Il nostro ospite ci offrì uva tanto deliziosa che l'epiteto gocce di paradiso, secondo l'ampolloso stile persiano, le sarebbe convenuto perfettamente. E pesche, dolci come fichi maturi, che provenivano dal Kiva, come ci spiegò in francese, lingua che parlava quasi correttamente, avendo frequentato una delle 3 scuole straniere di Kabul. Mi chiedevo se eravamo le prime donne a viso scoperto che vedeva, a parte i membri femminili della sua famiglia o le nomadi solo semivelate. Anche se la strada non era ultimata, il governatore sarebbe ritornato l'indomani mattina a Bala Murgao, sua residenza abituale. Decidemmo così di partire con lui. Presi posto sulla sua Chevrolet, cedendogli il mio accanto a Cristina, ebbi in tal modo occasione di conversare con il suo autista afgano che conosceva il russo. Il mio interlocutore riteneva poco probabile che i propri compatrioti, liberi dai bisogni e alla cui sussistenza era sufficiente il pane, fossero sensibili alla propaganda sovietica. Ancora sottomessi alle tradizioni familiari e devoti all'Islam, gli afghani non prestavano che un ascolto distratto ai ragionamenti atei dei loro vicini del nord. Benché la pista, tutta gobbe, ci costringesse a un'andatura assai moderata, al nostro passaggio i cavalli, che brucavano nei campi vicini, fuggivano al galoppo. Intorno vi erano tende nere a cui erano appese le sacche di feltro del latte cagliato. Il Turkestan non era lontano. Quando avevamo bisogno di acqua per i radiatori surriscaldati, a un richiamo del governatore apparivano uomini che portavano otri sostenendoli con bretelle. A mezzogiorno era prevista una sosta nei pressi del borgo di Darehbum, dove fummo ricevuti da un gruppo di anziani, tra virgolette. Quelle barbe bianche baciarono la mano del governatore, che ricevette l'omaggio con un'incantevole espressione di assoluto distacco. A cavallo percorremmo i circa 200 metri che ci separavano dalle tende preparate per noi. Dopo che ci fu offerto del duk, cosparso di foglie di menta, la rinfrescante bevanda asiatica a base di latticello, ci sedemmo a gambe incrociate davanti a un copioso pasto che consumammo come di dovere con la mano destra. Vennero serviti succulenti spiedini d'agnello, riso pilaf farcito di mandorle e spezie, vassoi di cremoso latte cagliato da raccogliere con gallette di pane e alla fine tè nero o verde a scelta in grandi tazze. Dopo furono fatti passare un acquamanile e un piccolo asciugamano perché potessimo lavarci la mano. Alcuni dei paesani che si occupavano di noi avevano la barba color carota perché è tinta di henné. Secondo un detto del profeta, fare applicazioni di henné, lavarsi i denti, prendere moglie e profumarsi sono quattro atti che ogni credente dovrebbe compiere. Numerosi vantaggi derivano dall'uso dell'henné, riferisce Donaldson in The Wild Rue. Permette ai dolori di uscire attraverso le orecchie, rinforza la vista indebolita, mantiene elastiche le membrane del naso, profuma gradevolmente la bocca e irrobustisce le radici dei denti, manda via gli odori del corpo, così come la tentazione di Satana. Rallegra gli angeli e i credenti mentre esaspera gli infedeli, è un ornamento per chi lo usa, allevia inoltre i tormenti da subire nella tomba. Beh, ben lungi dall'esasperarmi, le barbe tinte di henné mi danno sempre un senso di allegria quando le vedo fiammeggiare tra la folla dei bazar. Dopo aver trascorso le ore più calde della giornata sotto la tenda, tornammo alle nostre auto. Qualcuno aveva protetto i radiatori dai violenti raggi solari coprendoli con tappeti. Nella valle ventosa le acque grigie e tumultuose del possente Murgau si infrangevano contro i piloni del ponte demolito. La costruzione era stata spazzata via da una piena eccezionale. Dovrebbe far parte del lavoro degli ingegneri prevedere simili eventualità, osservò il governatore. Il Murgau bagna Merv nel Turkmenistan russo e segna la frontiera dopo la convenzione anglo-russa del 1907. I russi accusano spesso gli afghani di fare un uso eccessivo della loro acqua e il re è costretto ogni volta a spiegare che sono le cadute nevose e non i propri sudditi a essere responsabili delle irregolarità del suo flusso. Oggi, sulla sponda russa del fiume, è stata costruita una cittadina modello. Non procedevamo su una vera strada, ma su una pista incredibilmente polverosa, che affrontava rilievi dalle cime arrotondate in modo troppo diretto. Quando il motore cominciava a perdere colpi, ad ansimare, girando con fatica su quel fondo smosso di terra argillosa, alcuni uomini battevano la carreggiata. Una quindicina di afghani ci seguivano di collina in collina, pronti a spingere le macchine o a infilare sotto le ruote che slittavano impotenti stuoie intrecciate. Il governatore si innervosiva sempre più. Voleva a ogni costo arrivare a casa prima della preghiera del tramonto. Con gioia vedemmo pararsi dinanzi a noi il nuovo ponte e al contempo le mura squadrate di una cittadella. Al di là fremevano al vento sopra le cinte dei giardini fronde verdeggianti. Passammo la notte sul tetto terrazzato sovrastante un cortile ornato di aiuole fiorite e prima ancora di provare un qualche spaesamento tra le stelle di quell'oscuro oceano senza fondo ci addormentammo tra cielo e terra al lieve fruscio dei pioppi. Decidemmo di fermarci a Bala Murgau anche il giorno successivo, poiché c'erano stati promessi due cavalli con cui avremmo potuto raggiungere alcuni accampamenti di tribù, ma gli animali non arrivarono mai. Avendo così tempo a mia disposizione, mi misi a riordinare il mio sacco da montagna, dove ritrovai alcune cipolle acquistate a Trieste. Il governatore volle piantarle subito, impaziente di vedere se avrebbero attecchito anche nella sua provincia. Ormai eravamo scese a una quota inferiore ai 500 metri e da quel momento saremmo sempre state consapevoli del caldo. Durante le ore torride, il nostro ospite cercava riparo nel suo sardab, la camera d'acqua fredda, una sorta di cantina attraversata da un filo d'acqua corrente, dove anche noi lo raggiungemmo rabbrividendo tanto era notevole lo sbalzo di temperatura. Malgrado l'esistenza di un telefono, con cui era stato annunciato il nostro arrivo, e di una Ford polverosa al fondo del giardino, mi sembrava di essere in pieno medioevo. La vita scorreva dolce, immutabile all'apparenza. Il bazar era calmo, quasi addormentato. Gli uomini recitavano le preghiere sul terrapieno dinanzi alle loro botteghe. I sudditi baciavano la mano del loro signore. L'aria era percorsa dal lamentoso ragliare degli asini. Ai crocicchi, fakiri dai lunghi capelli incolti porgevano la loro scodella per le elemosine. Ci divertiva conversare con il governatore e, d'altro canto, era opportuno concederci un giorno di riposo affinché la mia compagna non si stancasse troppo. Avendo notato quanto Cristina fumasse, il nostro ospite le aveva offerto alcune scatole di sigarette dal bocchino di cartone. Era un peccato. L'avevo quasi convinta, o almeno lo speravo, che per poter far fronte alla sua debolezza, causa di tanti suoi tormenti, doveva prima acquisire fiducia in se stessa, allenando la propria volontà a ottenere piccole vittorie. Per esempio quella di moderare il fumo. Si era dichiarata d'accordo con me, forse anche perché la sua provvista di Camel andava esaurendosi. Il governatore parlò poi di petrolio, il migliore del mondo. Era stato trovato nella sua provincia e a Farah, a sud di Herat. Nel 1936 la Inland Exploration Company di New York aveva ottenuto una concessione di sfruttamento su più di 200 miglia nell'Afghanistan occidentale. Sempre quella società ne aveva un'altra sul suolo persiano e conseguiva che nessun concorrente poteva raggiungere la stessa falda di nafta e questo a partire dall'altro lato della frontiera. Il vero problema era portare sul posto le perforatrici e poi trasferire il petrolio fino a Chabahar sull'Oceano Indiano, attraverso più di 1500 chilometri di deserto. Un contratto di 5 anni assicurava il 20% dei profitti agli afghani, ma allo scadere di 2 anni la compagnia aveva rinunciato ai propri diritti. Alcuni affermavano che gli americani si erano spaventati per tutte le espropriazioni subite dalle imprese petrolifere in Messico. Le prime ricerche di petrolio nella regione erano state condotte da ingegneri francesi. L'ombra si allungava sul giardino, favorendo una conversazione più personale. Il nostro ospite era stupito di come potessimo vivere così a lungo, tanto lontano dai nostri mariti e dagli amici, di come riuscissimo a fare a meno della loro presenza in un paese straniero dove ogni cosa ci doveva apparire, se non ostile, almeno inusitata. Raccontò che, costretto a mettersi in viaggio senza la moglie, dopo 2 notti insonni aveva capito di non sopportare la sua mancanza ed era ritornato indietro per pregarla di accompagnarlo. La notte successiva dormimmo ancora sotto le splendenti stelle dell'Asia, ma poco prima dell'alba udimmo, vicinissima, una voce che chiamava «Signora!». Era il governatore che alloggiava nella nostra stessa ala della casa, avendo ceduto il proprio appartamento a una persona di riguardo. Di tacito accordo rimanemmo silenziose fino a che la prima luce del sole non venne a svegliarci. E poi, quante esclamazioni compiaciute per aver dormito così profondamente sotto la sua protezione, mentre in tenda ogni minimo rumore ci faceva sobbalzare. Egli si scusò di interrompere il nostro sonno così presto, ma la notte era stata lunga per lui e avrebbe desiderato discorrere ancora con noi. Inquadrato dalla porta, stava in piedi, avvolto in una vestaglia di raso blu scuro, di foggia europea. Aveva un atteggiamento timido e al contempo deciso. Guardando lontano, disse con tono semplice e incantevole: «Avrei voluto respirare il profumo di fiore del vostro volto». Con una sorta di rimpianto, pensai che quella frase non era diretta a me. Fino ad allora, il mio viso lungo e spigoloso era stato paragonato al massimo a un'erba selvatica. Shibargan. La pista ci conduceva attraverso l'estremità occidentale della catena montuosa chiamata Band-i-Turkestan. Spettacolo stupefacente di ripide colline tondeggianti sulla cima. Là non crescevano che cardi. E a un certo punto ne trovammo un gran mucchio di tagliati che il vento aveva poi ammassato in una fossa della strada così da sbarrare il cammino. Non c'era ancora successo di dover spalare enormi grovigli di aghi. Per fortuna il robusto Aminullah, la nostra nuova guida, venne in nostro aiuto di buon grado. Nell'edizione del 1875 dell'Enciclopedia Britannica troviamo scritto: a est di Bala Murghau il ban di Turkestan diventa la dorsale nord che separa l'altopiano di Firuzuk dalla pianura sabbiosa del Chal. Il ban di Turkestan forma qui un crinale orizzontale molto regolare e dalle sue sommità è possibile ammirare la straordinaria configurazione di questo immenso deposito di Lös, chiamato Chal, che si stende a settentrione fino alla Mudarja. Indossi, sinuosità, ondulazioni simili ad alti flutti sollevati dalla tempesta di un vasto mare giallo-grigio. Eravamo immerse in un mondo di sabbia, monotono e triste. Improvvisamente divenni attenta, quasi eccitata. Verso di noi arrivava, in una confusione di allegri colori, una carovana. Uomini a cavallo o a piedi, orsi, scimmie e bambini furono ricevuti al suono degli scatti dei nostri apparecchi fotografici. E poi le domande. Chi siete? Dove andate? Da quale paese venite? Erano degli yacht o zigani diretti verso l'India per la via di Kandahar. Uno di loro si mise a suonare un piccolo armonium portatile per far ballare la sua scimmia. I bambini, pidocchiosi e coperti di stracci scarlatti, avevano già impresso in volto il carattere indomabile della loro razza. Uno di essi ci osservava con immensi occhi grigio chiaro. Cavalieri dall'aria astuta e al contempo nobile passavano senza fermarsi, seguiti da un cavallo che portava due tamburi. Il magnifico rubino che ornava il frontale di un sauro non era altro che un rinfrangente di bicicletta. Per ultime, in un tintinare di campanellini di perle di vetro, di collane, ecco le donne con le loro gonne amplissime e stupefacenti al pari degli uomini. Guardavamo affascinate quello spettacolo che ne evocava per noi altri visti in un diverso continente. 2 mesi prima, in Jugoslavia, avevamo incontrato orsi simili, ugualmente arruffati, tutti mangiati dalle tignole. A mezzogiorno salimo in una piccola stanza situata al primo piano del caravanserraglio di Kalahwali. Aminullah, con la consueta gentilezza, ci fece portare uova, latte cagliato e uva. La strada era tutta piena di gente, essendo giorno di mercato. Non un albero all'orizzonte, soltanto terra gialla in un universo dove tutto era giallo, compresi i muri di Pisé, ma dove il candore dei turbanti e il rosso amaranto dei caftani vibravano gioiosamente come in un quadro d'autore. E come di consueto, non vi era nessuna donna. Quando ci incamminammo verso la macchina, una tale folla di curiosi si accalcò intorno a noi da costringere il nostro ospite, occhi dorati resi ancora più luminosi dal rosso violaceo dell'abito, ad aprirci la via a colpi di frusta. Mentre passavamo, Cristina osservava con sempre più ammirata curiosità quegli afghani solidi e allegri che, tenendosi per il mignolo, si divertivano a spingersi l'un l'altro contro la Ford o si burlavano reciprocamente del loro spavento. Altri ridevano di buon animo quando la loro cavalcatura si impennava, fieri di stare in sella con tanta maestria. Ripartimmo e presto raggiungemmo un'ampia vallata di biblica calma. Vicino a covoni di paglia alcuni animali giravano in tondo per battere il grano. Il sole brillava. Se non fosse stato per quei visi kirghisi che sorridevano al nostro apparire, avrei creduto di essere nei pressi di Kandahar, dove vidi un tempo contadini riunirsi verso sera nell'aia da poco spazzata per danzare con movimenti vigorosi e scattanti il loro ballo afghano. Questa danza mi appassiona da sempre. Mi sembra più selvaggia e spontanea delle acrobazie caucasiche dello stesso genere. Al magico suono del tamburello si susseguono balzi, salti, piccoli passi sempre più affrettati. Gli uomini dalla pelle bronzea piroettano a velocità incredibile, gettando la nera e lucida capigliatura lunga fino alle spalle, avanti e indietro, da un lato e dall'altro, trottole viventi. Si attorcigliano nell'ampia tunica bianca che sembra un tutù di ballerina, così chiusa fino alla vita dall'attillato panciotto. Le pieghe dei voluminosi calzoni fermati alla caviglia ricordano le eleganti linee di vesti greco-buddiste delle statue vecchie di 2000 anni rinvenute nel paese. Terminato il ballo, arrotolano nuovamente il loro turbante sulla testa, utilizzando poi l'estremità lasciata libera per asciugare il volto madido di sudore. Pare che essi danzino quando ne hanno voglia e non perché stimolati da spettatori, da ragazze da sedurre o da bevande. Virilmente, magnificamente esprimono attraverso il ballo i propri sentimenti e la loro debordante vitalità. Le partite di calcio rappresentano forse il modo occidentale di dare sfogo alle proprie energie, ma esse non esteriorizzano che forza. Gli uomini delle tribù non danzano soltanto a fine giornata, e neppure hanno bisogno di un'aia dove si batte il grano, come potemmo constatare un giorno mentre percorrevamo in macchina un vallone a nord del Baluchistan. Alcuni contadini erano intenti a mietere con piccole falci, accosciati uno dietro l'altro, mentre uno di loro ci faceva segno di attraversare il campo tutto screpolato dal calore. Rapidamente essi formarono un cerchio, tenendo in mano i loro attrezzi a forma di mezzaluna, e avanzarono a piccoli passi lenti e complicati, chinandosi sia all'indietro sia all'esterno del loro giro tondo. Il ritmo dei gesti si accelerò, la polvere si alzò, creando come onde al di sopra delle quali si agitava la massa dei capelli, mentre le braccia rimanevano tese verso il cielo di mezzogiorno che pareva bruciare se stesso. A intervalli echeggiava nell'aria un grido gutturale, quasi un ruggito. E poi tutto finì ed essi ripresero il lavoro. Non parevano affaticati da quella estenuante prestazione, anzi erano fieri di aver potuto mostrare tanta abilità. Il capo, loro maestro di ballo, un uomo dalla bella barba, ci spiegò che avevano eseguito per noi la danza della tigre.